Non penso, insomma, che sia stata la curiosità di quell'incontro a farmi salire i pochi gradini in cima ai quali era aperta, a causa probabilmente del caldo, la porta di una specie di vestibolo. Pensai del resto, quella curiosità, di non poterla soddisfare perché dalla scala, su cui restavo in ombra, vidi parecchie persone andare a chiedere una stanza e sentirsi rispondere che non ce n'erano più. Ora, contro queste persone c'era solo, evidentemente, il fatto che non appartenevano alla rete spionistica, giacché a un semplice marinaio, presentatosi un attimo dopo, si affrettarono ad assegnare la numero 28. Potei scorgere, senza nell'oscurità esser veduto, alcuni militari e due operai conversare tranquillamente in un piccolo locale soffocato, pretenziosamente adornato di ritratti femminili a colori ritagliati da periodici e riviste illustrate. Parlavano tranquillamente e stavano esponendo idee patriottiche. «Che vuoi, faremo quello che hanno fatto i compagni», diceva uno. «Ah, sta pur certo che non ho intenzione di farmi ammazzare», diceva, rispondendo a un augurio che non avevo sentito, un altro che, da quanto potei capire, ripartiva l'indomani per una postazione pericolosa. «A 22 anni e sotto da neanche 6 mesi sarebbe il colmo», gridava, con un tono da cui, più ancora del desiderio di vivere a lungo, traspariva la convinzione di ragionare bene, come se il fatto d'avere solo 22 anni gli desse maggiori probabilità di non finire ammazzato, come se si trattasse di qualcosa di impossibile. «A Parigi è pazzesco», diceva un altro, «sembra che neanche ci sia la guerra. E tu, Julot, vai sotto ancora?» «Certo che ci vado, ho voglia di dare una pestatina a quegli sporchi crucchi. Ma Joffre è uno che va a letto con le mogli dei ministri, e mica uno che abbia fatto qualcosa». «È brutto sentire di queste cose», intervenne un aviatore un po' più anziano, e, voltandosi verso l'operaio che aveva espresso quell'opinione, «non vi consiglierei di parlare così in prima linea, i ragazzi ve ne farebbero passare subito la voglia». La banalità di questi discorsi non mi faceva venire un gran desiderio di sentirne di più, e stavo per entrare o per scendere quando fui strappato alla mia indifferenza da queste frasi che mi fecero rabbrividire. «Com'è che ancora non torna il principale?» «Accidenti, mi sa che catene a quest'ora non ne avrà più trovate». «Ma se quello è già legato?» «Lo so che è legato, ma è legato e non lo è. Io, se fossi legato così, farei presto a slegarmi». «Ma il lucchetto è chiuso». «Si capisce che è chiuso, ma ci vuol niente a riaprirlo. Il fatto è che le catene non sono abbastanza lunghe». «Non pretenderai di spiegarlo a me. Ieri ho pestato tutta la notte, mi colava il sangue sulle mani». «Sei tu che pesti stasera?» «No, non sono io. È Maurice. Ma domenica tocca a me. Il principale me l'ha promesso». Adesso capivo perché avessero avuto bisogno delle braccia solide del marinaio. Se avevano allontanato dei tranquilli borghesi, non era dunque perché l'albergo fosse un nido di spie. Un atroce delitto stava per esservi consumato se non si arrivava in tempo a scoprirlo e a fare arrestare i colpevoli. Tutto questo, in quella notte tranquilla e minacciosa, conservava tuttavia un'apparenza di sogno, di racconto, e fu al tempo stesso con la fierezza di un giustiziere e la volontà di un poeta che entrai decisamente nell'albergo. Mi toccai leggermente il cappello e i presenti, senza scomodarsi, risposero più o meno educatamente al mio saluto. «Potreste dirmi a chi devo rivolgermi? Vorrei una camera e che mi portassero da bere». «Aspettate un minuto, il principale è fuori». «Ma c'è il capo di sopra», insinuò uno dei partecipanti alla conversazione. «Ma sai bene che non si può disturbarlo. Credete che me la daranno una camera?» «Credo di sì. La 43 deve essere libera», disse il giovanotto, che era sicuro che non lo avrebbero ucciso perché aveva 22 anni. E si spostò leggermente sul divano per farmi posto. «Se aprissimo un po' la finestra, c'è un fumo qui dentro», disse l'aviatore. E non ce n'era uno, in effetti, che non avesse la pipa o la sigaretta. Sì, ma prima allora chiudete le imposte, lo sapete, no? Che la luce è proibita per via degli Zeppelin. Non ne verranno più di Zeppelin. I giornali, anzi, hanno fatto capire che li abbiamo beccati tutti quanti. Ne verranno, non ne verranno. Cosa vuoi saperne tu? Quando avrai 15 mesi di fronte, come li ho io, e avrai abbattuto 5 aerei crucchi, allora potrai parlare. Non stare a credere ai giornali. Ieri sono andati su Compiègne. Hanno ammazzato una madre di famiglia con i suoi 2 bambini. Una madre di famiglia con i suoi 2 bambini, esclamò con gli occhi ardenti e in tono di profonda commiserazione il giovanotto che sperava che non lo uccidessero e che aveva del resto una faccia energica, aperta e straordinariamente simpatica. Non ci sono più notizie di Julot il Grande. Sono 8 giorni che la sua madrina non riceve posta da lui. È la prima volta che sta così tanto senza scriverle. E chi è la sua madrina? È la signora dei gabinetti pubblici subito dopo l'Olimpia. Ci va a letto. Ma cosa dici? È una donna sposata, il massimo della serietà. Gli manda un po' di soldi tutte le settimane perché è buona di cuore. È una donna generosa. Allora lo conosci tu, Julot il Grande? Se lo conosco, rispose con calore il giovanotto di 22 anni. È uno dei miei migliori amici, uno vero. Ce n'è pochi che stimo come lui, un compagno fidato, sempre pronto a darti una mano. Ma non me ne parlare, sarebbe una gran disgrazia se gli fosse capitato qualcosa. Qualcuno propose una partita a dadi, e nella fretta febbrile con cui il giovanotto di 22 anni, gli occhi fuori della testa, girava i dadi e gridava i punti, si intuiva facilmente un temperamento da giocatore. Non afferrai bene ciò che qualcuno gli disse, ma lui, in tono di profonda commiserazione, replicò: «Julot un magnaccia. Lui, cioè, dice di essere un magnaccia. Ma mi venga un colpo se lo è. L'ho visto io che pagava la sua donna. Sì, la pagava. Cioè, non dico che Jean, l'algerina, non gli passasse qualcosa, ma al massimo gli dava 5 franchi. Una donna che era in una casa, che guadagnava più di 50 franchi al giorno. Farsi dare 5 franchi soltanto. Bisogna essere dei bei fessi. E adesso che lavora al fronte, lei fa una vitaccia, non dico di no, ma guadagna quello che vuole. Beh, non gli manda un soldo. Julot un magnaccia. Ce n'è tanti che potrebbero chiamarsi magnaccia a quella stregua. Non solo non è un magnaccia, ma è anche un imbecille, secondo me». Il più anziano della banda, a cui il principale aveva certo affidato, a causa della sua età, l'incarico di mantenere un po' di decoro, sentì, essendo andato un momento al gabinetto, solo la fine della conversazione, ma non poté impedirsi di guardarmi e parve visibilmente contrariato per l'effetto che essa aveva potuto produrre su di me. Senza rivolgersi specificamente al giovanotto di 22 anni che pure aveva appena esposto quella teoria dell'amore venale, disse in modo generico: «Parlate troppo e troppo forte, la finestra è aperta, c'è gente che dorme a quest'ora. Se arrivasse il principale e vi sentisse parlare così sarebbe mica contento, lo sapete bene». Proprio in quel momento si sentì la porta aprirsi e tutti tacquero, credendo che fosse il principale, ma era solo un autista straniero cui tutti fecero grandi accoglienze. Ma vedendo una splendida catena da orologio che faceva bella mostra sul panciotto dell'autista, il giovanotto di 22 anni gli lanciò un'occhiata interrogativa e ridente, seguita da un aggrottar di sopracciglia e da una strizzata d'occhio severa indirizzata verso di me, e capii che il primo sguardo voleva dire: «Che roba è? L'hai rubata? Complimenti!» E il secondo: «Acqua in bocca con quel tipo, non lo conosciamo». Di colpo entrò il principale, tutto sudato sotto metri e metri di grosse catene di ferro che sarebbero bastate per parecchi forzati, e disse: «Che peso! Se non foste i fannulloni che siete, non mi toccherebbe andarci di persona». Gli dissi che volevo una camera. «Solo per qualche ora. Non ho trovato un tassì e mi sento poco bene, ma vorrei che mi portassero da bere. Pierrot, va in cantina a prendere del cassì e di che mettano in ordine la 43. Ecco il 7 che suona di nuovo. Dicono che stanno male». Star male, figurarsi, quelli prendono la coca. Sembrano più di là che di qua, bisogna sbatterli fuori. Hanno messo le lenzuola pulite? Alla 22? Bene, ecco che il 7 suona. Va un po' a vedere. Forza, Maurice, cosa stai a fare lì? Sai bene che sei aspettato. Va, sali alla 14 bis e muoviti! E Maurice uscì rapidamente, seguendo il principale che sparì con le catene, un po' seccato che io le avessi viste. «Com'è che arrivi così tardi?» chiese il giovanotto di 22 anni all'autista. «Come così tardi? Sono in anticipo di un'ora, ma a camminare fa troppo caldo. Ho appuntamento solo a mezzanotte. E per chi sei venuto?» «Per Pamela l'incantatora», rispose l'autista orientale, e scoprì, ridendo, i bei denti bianchi. «Ah», disse il giovanotto di 22 anni. Mi fecero salire quasi subito nella camera 43, ma l'atmosfera era così sgradevole e così grande la mia curiosità che, bevuto il mio cassì, ridiscesi la scala, poi, preso da un'altra idea, la risalii e, superando il piano della camera 43, proseguii verso l'alto. Di colpo, da una camera isolata in fondo a un corridoio, mi parve che venissero dei lamenti soffocati. Mi avvicinai prontamente a quella porta e vi applicai l'orecchio. «Vi supplico, grazia, grazia, pietà, slegatemi, non colpite così forte», diceva una voce. «Vi bacio i piedi, mi umilio, non ricomincerò, abbiate pietà». «No, bastardo», rispose un'altra voce, «e visto che sbraiti e strisci sulle ginocchia, ti legheremo al letto, nessuna pietà». E sentii i colpi d'uno staffile probabilmente provvisto di chiodi, perché il rumore fu seguito da urli di dolore. A questo punto mi accorsi che in quella camera c'era un occhio di bue laterale, di cui si erano dimenticati di chiudere la tendina. Camminando a passi felpati nell'ombra, scivolai fino a quell'apertura e là, incatenato a un letto, come Prometeo alla sua roccia, percosso da Maurice, con uno staffile effettivamente irto di chiodi, vidi, già tutto coperto di sangue, nonché di ecchimosi che provavano come il supplizio non avvenisse per la prima volta, vidi davanti a me il signor di Charlieu. A un tratto la porta si aprì ed entrò qualcuno che fortunatamente non mi vide. Era Jupien. Si avvicinò al barone con aria rispettosa e con un sorriso di intesa. «Avete forse bisogno di me?» Il barone pregò Jupien di far uscire un momento Maurice. Jupien lo mise fuori con la massima disinvoltura. «Non possono sentirci?» chiese il barone a Jupien, che lo rassicurò. Il barone sapeva che Jupien, intelligente come un letterato, non aveva il minimo spirito pratico. Parlava sempre davanti agli interessati, con sottintesi che non ingannavano nessuno e soprannomi che tutti conoscevano. «Un secondo», lo interruppe Jupien, che aveva sentito suonare il campanello della camera numero 3. Era un deputato dell'Action Liberale che se ne andava. Jupien non aveva bisogno di vedere il quadro, perché riconosceva la sua scampanellata, dato che il deputato, in effetti, arrivava ogni giorno dopo colazione. Quel giorno era stato costretto a cambiare orario perché sua figlia si era sposata a mezzogiorno a Saint-Pierre-de-Chaillot. Così era venuto di sera, ma ci teneva ad andarsene presto a causa della moglie, subito inquieta se lui rincasava tardi, soprattutto in quel periodo di bombardamenti. Jupien ci teneva a scortarne l'uscita per testimoniare la deferenza che portava alla carica di onorevole, senza peraltro alcun interesse personale. Infatti, sebbene quel deputato, che ripudiava gli eccessi dell'Action Française, non sarebbe stato del resto in grado di capire una sola riga di Charles Maurras o di Léon Daudet, fosse in buoni rapporti con i ministri, fieri dei suoi inviti a caccia, Jupien non avrebbe osato chiedergli il minimo appoggio nelle noie che aveva con la polizia. Sapeva che se si fosse azzardato a parlarne al ricco e timoroso legislatore, non avrebbe evitato nemmeno la più inoffensiva delle perquisizioni, ma avrebbe perso all'istante il più generoso dei clienti. Dopo aver riaccompagnato sino alla porta il deputato, il quale, abbassandosi il cappello sugli occhi, tirando su il bavero e scivolando via alla svelta come era uso fare con i programmi elettorali, credeva di nascondersi il viso. Jupien risalì dal signor di Charlus e gli disse: «Era il signor Eugène». Da Jupien, come nelle case di cura, si chiamavano le persone solo col nome di battesimo, affrettandosi ad aggiungere all'orecchio, per soddisfare la curiosità dell'abitué o per aumentare il prestigio della ditta, anche il cognome. A volte, tuttavia, Jupien ignorava la vera personalità dei suoi clienti. Immaginava e diceva trattarsi di un certo operatore di borsa, o nobile, o artista, errori passeggeri e piacevoli per i nominati a vanvera, e finiva col rassegnarsi a ignorare per sempre chi fosse il signor Victor. Così, per compiacere il barone, Jupien aveva l'abitudine di fare l'inverso di quel che è duopo fare in certe riunioni. «Vi presento il signor Lebrun», e all'orecchio: «Si fa chiamare Lebrun, ma in realtà è il Granduca di Russia». E inversamente, Jupien sentiva che non era sufficiente presentare al signor di Charlieu un garzone di lattaio. Strizzando l'occhio, gli sussurrava: «È garzone di lattaio, ma in sostanza è soprattutto uno dei più pericolosi apache di Belleville». Bisognava sentire con che tono salace Jupien diceva «apache». E come se quelle referenze non bastassero, cercava ad aggiungere qualche citazione. «È stato condannato più volte per furto e svaligiamento di ville. È stato a Fresnes per una rissa», stesso tono salace, «con dei passanti che ha mezzo storpiati. È stato al Bat Daf, ha fatto fuori il suo sergente».